Mi ricordo di un ricordo, spero che non me lo scordo. Un ricordo di fanciullo che mi dona sicurezza. E per non dimenticarlo, io mi alleno a ricordarlo. Ma dimentico il presente. 20. Io mi alleno a ricordarlo con il metodo ufficiale. Annodare il fazzoletto ad un biografo ufficiale. Ehi, sono le ore 20:52 e dopo questo primo brano di Elio, Genio e Follia insieme, vi lasciamo a un brano e quindi capirete bene di che cosa si parla durante questa puntata. E allora credo che mi sentiate adeguatamente, quindi un buon ascolto a tutte e a tutti. E questo brano lo conoscete sicuramente. Salute e felicità. Salute e felicità, una rubrica tendenzialmente queer che viene da tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su transizionedifase.org. Questa sera è una puntata che la dedichiamo, diciamo, in cui parleremo di, come al solito, un milione di cose, ma in maniera particolare di quelli che sono gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Volta. E quindi quale gruppo meglio di Elio per iniziare tra genio e follia questa puntata? Mi ha preso la saudade, eppure ero felice, non so cosa mi accade, io vado, mi dispiace, ma non ne posso più. Mi sento così giù, ho voglia di morire. E pensare che ero venuto in una bella chiamata con te. Olè, quindi manca poco. Questa lagna, come si fa? Non si può. Non si può. Non ce la faccio. Non ti pare? Eh? Oh. Eh? Oh. Ehi tu, mollerai il linguaggio con me, ma chi ti credi di è? Ok, sei venuto a cena da me, ma non fatto un altro errore, non ne faccio una giusta. Avrò sbagliato a schiacciare il bottone, avrò sbagliato il cognome, però visto che oramai sono qua, potremmo andare di là. Qualcosa che ci crede lui per salvare me. Baby. E non gridate baby, perché se no mi sveglio. Oh baby, baby, mi piace tanto tanto baby, povero baby, baby. Eh sì, baby e mica baby. Ma lo sai noi cosa facciamo giù a Ipanema quando la situazione si fa veramente pericolosa? Eh? Oh. Parliamo in piedi su una gamba, se una sola mi risulta stampa, non so che come trappa. E se ti sembra niente, vuoi far diversamente, lo falli con entrambi i bracci, e se trovo capaci. E se diventi nuovo capaci, e al 37esimo cambio di genere e di ritmo di questa canzone di Elio vi mandiamo la nostra sigla. Loro sono i Caribou e questo brano si chiama Sun. Un buon ascolto a tutte e a tutti. E alle ore 21 le campane di Santa Maria Maggiore, come al solito, suonano e comincia Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer. Thank you. 21:06, suonano le campane del clou di Piazza Vittorio e salute e felicità è al suo inizio. Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Siamo tantissimi oggi in questo igloo affollato di Plaza de Vittorio, dove piove, nevica, tira vento, ma c'è anche il sole. Ebbene sì. E ci appropinquiamo a questa quinta. Yes. Yeah, quinta puntata di salute e felicità, sempre più ricca, sempre più piena di approfondimenti e di follie, direi, musicali e in generale un po' su e tutto. E non solo. In che senso? Di follie, E allora che cosa ci riserva oggi salute e felicità? La puntata di oggi abbiamo deciso di parlare di ospedali psichiatrici giudiziari e come al solito la nostra secchiona è molto preparata al riguardo, già 7-8 libri già davanti. Quindi non ci parlerà di articolo 18. Ma in realtà anche un po' sì, dai, 2-3 cosette ce le dici, no? Sull'articolo 18? No. No, questa sera vi lascio in pace. La prossima settimana vi tedierò con l'articolo 18 e con lo sciopero della FIOM. Quindi non sono io quella preparata stasera. In realtà, come dire, ho messo mano a vecchie conoscenze per dire qualcos'altro o qualcosa in più, o aggiungere delle cose che riguardano il tema della salute mentale in generale. Tra l'altro abbiamo un ospite d'eccezione questa sera via Skype. Wow! Il nostro amico Emanuele Sirolli è con noi, che come dire, è anche un compagno di lotta in merito alla salute mentale, per cui niente, che facciamo? Che facciamo? Abbassiamo i volumi in parte, io spiegherei che cosa sono gli ospedali psichiatrici giudiziari in maniera molto rapida, così già subito, così introduciamo che sono un istituto italiano che a metà degli anni 70 ha sostituito i precedenti manicomi criminali, cosiddetti. Sono strutture giudiziarie dipendenti dall'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e al 30 giugno 2010 contenevano un totale di 1547 detenuti. Quindi in che anno? Al 2010, al 30 giugno 2010. No, perché sono gli stessi di quest'anno. Sì. Pensando che erano dati di decenni fa, e invece no. E invece no, e quindi vi lasciamo a questo brano che vi introdurrà anche voi più o meno a quelle che sono le cose che volevamo dire. Lui è un simpatico artista, poeta, scrittore, teatrante, attore, eccetera, eccetera, e si chiama Ascanio Celestini, e iniziamo con lui sia con la musica e sia con le nostre tematiche di questa serata, che non saranno solo pronti, eccola, che non saranno solo gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma parleremo di un po' di cose, fra cui anche la grande manifestazione della Notav che c'è stata, e di un fattaccio che è successo a Ostia riferito a degli attacchi di Casa Pound, dell'ennesima trans e della sua testimonianza che abbiamo audio, dell'ennesima trans che ha subito violenza. Parleremo un po' poi dei nostri stipendi, da quanto ho capito, giusto? C'è qualcuno che ha detto qualcosa sui nostri stipendi? Articolo 18? No! No! Articolo 18? No, no, però qualcosa che... c'è sempre lei che chiacchiera, perché non c'è niente da fare, la Fornero. La Fornero ci vuole bene. Stasera mi sa che ci sentiamo la Fornero, la Santa anche, Ali Mortè. Oh, mamma mia, annaccia. È proprio una brutta puntata allora. Ottimo, cioè, li ho lasciati così per 10 minuti da soli e questi mi hanno messo tutta sta gentaccia. Quindi sì, niente, vi facciamo sentire questa canzone. E poi andiamo avanti col palinsesto della serata. Salute e felicità a 21:10. Per chi vuole entrare in chat da www.transizionedifase.org può cliccare sull'icona chat. Come si fa ad entrare in chat? Installate Java se non è già installato sul vostro computer, dopodiché si aprono due finestrelle, alla prima cliccate esegui, alla seconda cliccate no e magicamente entrerete nella chat di Transizione di Fase di Salute e Felicità. Vi aspettiamo in chat, vi aspettiamo su Skype, il nostro contatto è Salute e Felicità. E andiamo avanti con il brano perché io sto per svenire. Ebbene sì, buon ascolto a tutte e a tutti. Noi siamo una testa senza giudizio, siamo una scimmia senza cervello, siamo la fine senza l'inizio, siamo il becco ma senza l'uccello. Siamo una guerra senza armistizio, siamo la falce senza il martello, siamo la chiave senza la porta, siamo una bella natura morta. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Siamo buffoni, siamo pagliacci, siamo vestiti di pezzi e di stracci, siamo pagliacci, siamo buffoni, col cazzo fuori dai pantaloni. Facciamo ridere tutta la gente, ci abbiamo in bocca soltanto un dente, ma se facciamo troppo casino ci attaccano subito alla corrente. Noi ci mangiamo la terra e i sassi, nel giardino ad angolo retto, inciampiamo sui nostri passi, quando fa buio torniamo a letto, per fare in fretta la nostra cena, per non avere troppi pensieri, ce la servono in endovena le suore, i medici e gli infermieri. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Per chi ha bisogno di santi e di eroi, chi cerca un briciolo di poesia, venga pure a guardare noi che sfiliamo lungo la via. Ci guarderete con interesse come uno squalo dentro una vasca, l'ultimo mulo che tira il calesse, la stella cadente che adesso casca. Ci alterniamo coi nani e le zoccole, l'orso che tiene sul naso una palla, il leone che mangia le vongole, la scimmietta sopra la spalla. Noi siamo quelli pieni di caccole che con il moccolo fanno la bolla, pure se siamo poveri cristi facciamo coppia col bue nella stalla, perché siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. però ce l'abbiamo una folle idea che forse, forse vi sembrerà strana. Cacare sui vostri mobili Ikea, sui vestitini di Dolce Gabbana, sugli onorevoli sempre corrotti che non finiscono mai in galera, sulla gobba di Andreotti, sul telequiz del sabato sera, sulle preghiere dei bigotti, sulla triste camicia nera, sulle combricole dei salotti, sulla retorica della bandiera. Noi siamo storpi, noi siamo brutti, siamo discarica, siamo il vizio, siamo l'odio contro voi tutti, siamo vecchi pure per l'ospizio. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Voi perdonate se troppo sgarbata ci venne fuori questa canzone, ma per trovare la rima baciata ci lavorò tutto il padiglione. Il padiglione che verso quell'ora si deve bere la camomilla, ce la porta la vecchia suora prima di chiuderci nella stalla. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Noi siamo gli asini, noi siamo i mani del matticomio. Fino a che sono stato chiamato da un medico del reparto, il quale si è avvicinato ad una lavagna dove già c'erano scritti diversi nomi, ha aggiunto anche il nome mio. E io ho capito che quello era l'elenco dei pazienti che dovevano essere sottoposti a elettroshock terapia. È venuto il turno mio, io ero l'ultimo perché ero stato iscritto per l'ultimo e sono entrato in questa sala. La sala era in penombra e spiccavano le luci di questa macchina dell'elettroshock che mi hanno impressionato. Mi hanno messo sul letto a forza, mi hanno bagnato le tempie con dei tamponi di acqua e sale, credo che era acqua e sale. Poi la suora mi ha premuto due elettrodi alle tempie e il medico, ho sentito il medico che diceva pronto, e la suora ha risposto pronto, e poi non ho perso conoscenza, non ho sentito più niente. E una volta si chiamava elettroshock, adesso la chiamano terapia elettroconvulsiva. Una volta era l'elettroshock brutto e cattivo, adesso è diventato buono, che ti aiuta. E c'è ancora, non tutti lo sanno, ma c'è ancora chi lo fa in Italia, no? Assolutamente. Il che è tutto dire. A volte dovrebbe bastare, come dire, no? Una piccola testimonianza come quella che abbiamo appena ascoltato per farti capire di che cosa si parla e quanto questo genere di robe. Com'è possibile che nel 2012 si continui a propugnarle da un certo punto di vista e a pensare che questa roba sia terapeutica, no? Che in certo modo abbia un effetto, se non chiaramente quello automatico di distenderti e quindi di annullare quella che è la tua persona, appunto con scopi terapeutici, così per dire, perché sei un caso troppo grave e quindi hai bisogno di questo genere di robe. Come vi dicevamo, appunto, questa puntata, vabbè, l'inizio è un po', diciamo, giù di tono, proprio perché l'argomento non fa particolarmente ridere. E inizierei con una nota giusto così di non colore sull'elettroshock nero. Perché, come dire, la testimonianza sul pezzo di Ascanio si fa sentire abbastanza, no? Mi hanno appoggiato due elettrodi sulle tempie. Non so chi lo sa, di chi è in ascolto, come è nato l'elettroshock, cioè se è nato, come dire, in maniera diretta per le persone, per fargli perdere conoscenza, o se prima era stato applicato in qualche altro. Il primo, diciamo, la prima sperimentazione, se così possiamo dire, di passaggio di corrente elettrica attraverso il cervello fu sviluppata più o meno negli anni 30 da prima di Cerletti, in un mattatoio, perché i maiali che andavano messi tutti in branco sentivano in qualche modo l'odore della morte e quindi si agitavano, scalciavano, eccetera eccetera, e quindi bisognava trovare il modo per fare in modo di far arrivare questi maiali alla morte senza confusione. Ecco, gentilmente morite tutti quanti con calma, non vi affollate. La prima cosa che fu fatta fu metterli in fila indiana, quindi da non potersi vedere vicendevolmente. La seconda cosa che fu fatta fu applicargli degli elettrodi che passavano corrente da una tempia all'altra. I maiali così arrivavano, non avevano nessun più modo di dire qualcosa di diverso, di fare altrimenti. No, sereni, diciamo, avevano risolto così la faccenda. E il genio fu addirittura applicarlo non solo già sulle bestie, è una cosa incomprensibile, ma addirittura esportarlo, diciamo, al modello umano, no? E a farlo fu un gran pezzo di genio. Sì. Ugo Cerletti e Lucio Bini, ecco qua, che sono due neurologi italiani, ecco, più o meno degli anni 30. Viva la medicina, no? Viva la medicina. Ora sì, non vorrei dire cose sbagliate, ma ricordo che Cerletti per questo prese anche il premio Nobel alla medicina. Non mi ricordo mesi dopo, ma quanti mesi dopo, ma successe anche questo, per cui non solo erano contenti di quello che si era scoperto, ma anche, come dici, si glorificò un po' questa cosa qui. Dopodiché, tornando a noi, e poi vi lasciamo un altro paio di brani, vi rammentiamo che nonostante la riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, che tenderà a chiudere tutte quante le strutture, che in Italia ce ne sono state, o ce ne sono tuttora, diciamo, 6, uno ad Aversa, uno a Napoli, uno a Barcellona Pozzo di Gotto, uno a Castiglione delle Stiviere, che è in provincia di Mantova, uno a Reggio Emilia e uno a Montelupo Fiorentino. Che quindi tenuti presenti, ve ne parleremo dove c'è una capienza legalmente stabilita. Parliamo di 259 persone detenuti possibili, e mentre i detenuti presenti nel 2010 erano 355, dove ce n'erano 100 in realtà ce n'erano 120, dove ce n'erano 193 posti in realtà ce n'erano 279. A Reggio Emilia, dove ce ne potevano stare 132, nel 2010 c'erano 279, quindi praticamente più del doppio, eccetera, eccetera, eccetera. Salutiamo Radio Noiz, che come al solito è entrato in chat e ci continua a blastare. Vi ricordiamo che siamo... Grazie Radio Noiz. Ecco, come al solito. Sempre con te. Grazie mille. E vi ricordiamo anche che stiamo su Twitter, e quindi ci potete scrivere anche da lì con salute e felicità, tutto attaccato chiaramente. E che poi fanno gesti che io non parlo la lingua dei segni, in realtà, ahimè, andrebbe quindi... molto meglio. Oh, bravo, hai fatto quello che ti chiedevo, va benissimo, volevo capire. Ora, dopo queste due frasi dette che voi non avete capito, sì, siamo per passare al prossimo brano, 21 e 22. Torniamo dal prossimo brano spiegando un po' che cos'è questo decreto sulle carceri che mette in mezzo gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, che da oggi in poi iniziamo a chiamare OPG, così da ora in poi. Sì. E poi andremo avanti durante la trasmissione. Ma qui qualcuno vuole dire qualche cosa. Volevi dire qualche cosa? Volevi dire qualche cosa? No, è silente, no. Oggi la nostra secchiona non voleva dire niente. Sciopero. E allora va bene, Get Up, Stand Up. Non è la versione Bob Marley, ma mi viene Robert Smith. Oddio mio, come si chiama? Come si chiama? Dai, Peter Tosh. Get Up, Stand Up. Un buon ascolto a tutte e a Don't tutti. Give up the fight. Don't give up the fight. So please. Thank you. for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. You preacher man, don't tell me heaven is under the earth. You are dumpy and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, you would look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up, be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up, stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up, tired of this game of technology, humbly asking Jesus for his mercy. We know when we understand, Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, ed eccoci qui di nuovo in casa. Ebbene sì. Che questa E il brano in sottofondo è La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni, attenzione. Questa sera il conduttore è proprio, scusate, è proprio Daria con tutte queste intro. È proprio Daria? Daria? Che sì, vuol dire sono Daria? Nel senso che sei dentro. Sei dentro la trasmissione. Becca con tutte queste set. Con tutte queste incursioni musicali, senti, così. Senti, senti. Sento che non scappi tra la dita. Beh, dicevi? Sono Daria. Che è preparato stasera. Ah, voglia di preparato, sta buona. Alla quinta puntata gliel'ha fatta, sì, fatta cosa questa trasmissione. Sì. E dai. Becca di questa, conduttore. E becca di questa. E diceva Celestina, così come... c'è sempre una parola ma da perché parte sei di... intelligente, scusa, brava, bella e intelligente, ammazzo, cerco pure marito, posso firmare con i soldi, scusa. In che senso, scusa? Vabbè, un marito per finta fa sempre bene, comunque. Ma allora c'è giù e more. Specie se ricco. No, possibilmente con i soldi, vabbè, a parte questa cosa. Dagli un po'. Volevo dire, per chi invece volesse saperne di più del tema più generale della salute mentale, ovviamente consigliamo il libro di Franco Basaglia, L'istituzione negata, in cui nella prima parte appunto di questo libro ci sono le testimonianze delle persone che hanno vissuto in manicomio, e appunto, come diceva Scanio Celestini, un po' giocando su questa cosa degli asini, ma in realtà vivevano veramente in una stalla, perché costretti a vivere anche in 140 istanze piccolissimi, senza la possibilità di andare al bagno o di poter vivere appunto da persone e non come degli animali. Poi, ripetiamo il titolo del libro di Franco Pasai. L'istituzione negata. L'istituzione negata. Un must proprio. Si parte dall'istituzione negata. Per poi andare avanti su, come dire, l'istituzione negata è un po' rappresenta, come dire, il libro che, dal quale puoi iniziare per arrivare fino ai giorni nostri, passando per tutta una serie di autori che comunque hanno detto qualcos'altro rispetto alla salute mentale, anche hanno fatto le cosiddette pratiche alternative dopo la legge 180 e anche, come dire, si sono impegnati per sconfiggere la miseria del manicomio, diceva qualcuno, e altri sconfiggere anche la miseria degli OPG, come ad esempio Giovanna del Giudice. Yeah. Ma qui c'è la Coco che vuole dire qualcosa, reclama il microfono a gran voce. Dai, ecco. Coco, vai, non fare la timida, hai parlato 10 minuti prima, vai. No, la Coco voleva chiamare a... chiamare a raccolta? No, leggevo in chat perché ho preso una falla, sì. Ho preso una falla, il premio Nobel non era per Moniz, e vabbè, ognuno era improvvisata, quindi si può accadere. No, però l'avevi detto, accadere. Non vorrei dire una cosa poco corretta, esatto. Strozzata. No, come al solito era per vedere se erano attenti. Chiaramente, era attento, molto bene, sì. Siete bravi, la prof e il Sirolli vinceranno un aperitivo alla prossima cena di transizione di fase. Che sarà, come al solito, l'ultimo venerdì del mese. Marzo, quindi marzo, vi aspettiamo. Quindi. Oh yes. Allora abbiamo in collegamento con noi Sirem. Sirem, ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao a te, ci senti, vero? Eccola. Bella psicopri. Ciao Sirem. Vuole parlare con te, Nini? Vuole parlare solo con te. Allora, quello che abbiamo in diretta è Emanuele, che è nella sua vasca da bagno e sta parlando da dentro un bicchiere d'acqua, a quanto sì, pare. Praticamente sì. Ma ci piace così. Allora, qua volevamo introdurre un po' questo discorso su questo decreto carceri uscito questo mese, che non solo parla di carceri ma anche di ospedali psichiatrici giudiziari. Sì, in effetti hanno fatto questo decreto carceri, svuota carceri, all'interno di questo decreto ci hanno messo gli ospedali psichiatrici giudiziari. La cosa bella è che l'hanno fatto passare come una grande conquista, come la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, festeggiamenti da parte della sinistra dei parlamentari a tutto spiano, quando diciamo che non si tratta di una struttura chiusura, anzi gli ospedali sì, è vero, sono stati chiusi, ma non sono stati aboliti. Non è una legge che abolisce gli ospedali psichiatrici giudiziari come la legge 180 ha abolito il manicomio, ma è una legge che li chiude e permette l'apertura di nuove strutture, magari diverse, magari da quelle preesistenti. E se non sbaglio, su questa riapertura sono stati anche stanziati un sacco di soldi. Esattamente, 120 milioni di euro, 60 milioni di euro, milioni l'anno prossimo mi sembra, non voglio dire sciocchezze, ma su per giù questa la cifra. No, esatto, si rende disponibili 38 milioni per il 2012 e 55 milioni di euro per il 2013, quindi entro marzo del prossimo anno i 6 OPG presenti in Italia chiuderanno e si darà sfogo alle regioni per aprire tutto quello che vogliono. No, non è sicuro le prigioni, perché... Regioni, scusate, io ho un audio, anche il mio audio non è esattamente. Le regioni entro il dicembre del 2012, marzo 2012, tra un mese circa, dovranno dire come sono fatte queste strutture, di quali strutture si avvarranno. Per adesso ancora non si sa, si parla di 20-30 posti letto, si parla di strutture dentro le carceri, non si sa bene come, quali soluzioni poi si porteranno avanti. Staremo a vedere e dovremo monitorare regione per regione quali direttive emana entro fine marzo. A me ti volevo chiedere e riflettere un po' insieme le cose che interessavano, sono fondamentalmente due. La prima, sul paradosso di questa chiusura non chiusura degli OPG, cioè in che modo gli OPG non vengono chiusi ma in realtà si dà il via libera a continuare un determinato tipo di pratica. E la seconda riflessione era sul, in parte sembra una storia già vista, nel senso che si vogliono chiudere per degli obiettivi delle strutture, ma in realtà se ne vogliono creare delle altre dove all'interno possono accadere cose, se possiamo dire in maniera blanda, anche peggiori. O quantomeno equiparabili. Che Ria si muove, si muore, lo dimostra il caso di Mastro Giovanni, lo dimostra il caso di Casu in Sardegna, lo dimostrano tante altre persone che sono morte legate al letto e legate in situazioni psichiatriche, ma che esiste una legge comunque che sulla psichiatria può in qualche modo garantire una dignità della persona, è anche vero. La questione degli ospedali psichiatrici giudiziari è un'altra, perché fa parte non del ramo psichiatrico ma del ramo legislativo, quindi non della medicina, non del ministero, come dicevi tu prima, del ministero di sanità, ma del ministero di grazia e giustizia. Il problema della chiusura, di questa chiusura degli OPG, apre vari scenari, secondo me, e purtroppo non li vedo molto positivi. Il primo è questo, che con il passaggio alla psichiatria di quest'area, che prima era esclusivamente di Grazia e Giustizia, del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi aveva una valenza di custodialistica, questa valenza custodialistica viene passata alla psichiatria, che significa che gli psichiatrici tornano a essere dei carcerieri o cominciano ad essere dei carcerieri. E è da un punto di vista concettuale una cosa che un po' mi preoccupa da psicologo, non so. Un'altra questione che invece forse è ancora più preoccupante è che nel momento in cui vengono pubblicizzate queste nuove strutture tanto belle e tanto funzionali alla riabilitazione della persona, il giudice non avrà più tante remore a inviare una persona in queste strutture, quel remore che prima aveva nell'inviarne in OPG, tant'è vero che 1500 non è poi un numero altissimo di persone che sono negli OPG tuttora. E quindi mi penso che ci sarà un aumento del numero di persone, di detenuti inviati in strutture manicomiali o post-manicomiali, o chiamiamole come vogliamo. No, infatti questo pensiamo sia una cosa molto importante, perché d'altronde anche inserendo un decreto appunto sullo svuotamento delle carceri non si modifica il codice penale per l'immissione appunto degli utenti, tantomeno la gestione di queste strutture ha diciamo maggiore controllo, perché come dicevi bene tu prima viene completamente affidata al servizio sanitario e in qualche modo a un apparato di sicurezza e vigilanza. Io direi però, se Sirem ce la fai ancora, facciamo una piccola pausa musicale, così i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non ci svengono di fronte al microfono, ma si fanno salire una giusta rabbia e intolleranza verso questi OPG e verso queste persone recluse, e vi vogliamo lasciare a un brano che il titolo dice abbastanza. Come si chiama? Diazepam. Che è Diazepam? Che cos'è il Diazepam? Ve lo diciamo dopo. Vi lasciamo con il Karate Diazepam. Un buon ascolto a tutte e tutti. Just ignore the red phone bill. Just put it up on the sill. Close your eyes. Still scalping this ticket lesson. The Mars. E ci scusiamo per questo taglio un po' così violento di questa canzone, che erano i Mars Volta con Cicatriz Esp. Purtroppo io ho una difficoltà con i titoli delle canzoni, se non li leggo 200 volte. E a proposito di quello che diceva il nostro amico e compagno Sirem, vi volevo leggere una cosa breve, ve lo giuro, che paradossalmente sembra sempre attuale. In realtà la scriveva nel 1979 Luigi Onnis su un libro che si chiama La ragione degli altri, che un po' raccoglie tutte le esperienze antistituzionali e antipsichiatriche in Italia e nel mondo, e diceva in merito alla psichiatria, mi colpiva molto quello che diceva, mi colpiva nel senso, mi faceva riflettere quello che diceva Emanuele rispetto alla psichiatria che ridiventa carceraria in un certo senso. E Onnis nel 1979, a proposito di una possibile crisi della psichiatria, a un certo punto dice che in questo dilatarsi al sociale, in questo entrare a far parte della vita quotidiana, la psichiatria rischia di dover assolvere, e di fatto assolve, laddove il processo è in fase avanzata, compiti ben più rilevanti ma anche più pericolosi. E cioè alla psichiatria si chiede fondamentalmente di diventare strumento di più diffuso controllo sociale, di individuare precocemente qualsiasi comportamento indesiderato per ricondizionarlo a modelli socialmente più accettabili o riconvertirlo comunque in forme più facilmente gestibili. Alla psichiatria, nel suo farsi sociale, si attribuisce così la funzione di inglobare nel proprio ambito, ambito tecnico, neutrale, non politico, le devianze, le marginalità, i disadattamenti dipendenti da fattori sociali espliciti, e di creare una rete di controllo tecnico-sociale più sottile e penetrante, dove la barriera fra norma e devianza si fa sempre più fragile e nebulosa. Mai cosa più attuale cioè, del 1979, tra l'altro, rispetto a quello che potrebbe succedere o che sta accadendo oggi con questa legge che di fatto dice che chiude appunto gli OPG, e che invece sappiamo tutti benissimo che a volte una legge non basta, è necessaria, ma sappiamo anche tutti come è andata, quali sono state le situazioni che ha prodotto la chiusura dei manicomi con la legge 180, che cosa ha significato per questo paese in termini di importanza dire che le porte di quel posto fossero chiuse, oppure come io preferisco pensare che in realtà sono state aperte, perché in realtà è questo che è stato fatto, cioè è stato portato fuori quello che era il disagio sociale di persone che appunto è più facile tenerle in un posto ghettizzate piuttosto che vedere, confrontarci tutti i giorni e relazionarci tutti i giorni soprattutto. Però vorrei ridare la parola a Emanuele. Sirem, sei vivo? Sì, sono vivo, vi ascolto. Grande. Ti piace? Ti piace? Non si sta proprio un collo come Pedori in chat, forse siamo un po' più aperti di Radio Onda Rossa, un po' più ascoltabili. Oh, mamma mia! Sì, ma abbassa la radio, Non ci fai ritorno. Non ci fai ritorno, abbassa un po' il volume. Come dice Gigizu, quando tutto funziona non toccate. E allora eravamo appunto a questo punto, eravamo al punto del punto. Sì. Diciamo servizio sanitario versus attività di sicurezza e vigilanza, perché come diceva prima Sirem, appunto viene ridato in qualche modo potere al servizio sanitario e quindi alle azioni psichiatriche. E in un articolo Maria Grazia Giannichedda, nostra stimatissima collega e amica, poneva una domanda abbastanza interessante che pongo a Emanuele così fredda e tranquilla. Becca di questa perché appunto con questo decreto si affida al servizio sanitario le nuove strutture e si dispone che vi sia all'esterno, se serve, un'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza, che è un po' un escamotage che sembra assegnare ai medici la cura e alle guardie la custodia. Ma questo basterà a evitare porte chiuse, finestre blindate, telecamere a circuito chiuso, letti di contenzione, abuso di psicofarmaci, insomma tutti quei mezzi della cura custodia che la psichiatria ha ereditato dall'era manicomiale? Ta ta ta ta. sicuramente rimarranno lì, perché nel momento in cui la domanda sociale implicita che si dà alla psichiatria è quella di custodia, tu non puoi eliminare tutte quante quelle porte che servono per la custodia. È una questione che implicitamente andrà così, in maniera automatica. Non penso che potranno esserci delle strutture a porte aperte che andranno ad accogliere queste persone, perché quelle strutture sono adibite non ad accoglierle ma a contenerle, e sappiamo che non porta a niente questo tipo di organizzazione, sappiamo quanto è pericoloso, però diciamo che una buona, si dice che è una buona legge, si dice che gli OPG li stanno chiudendo. A me mi preoccupa molto, ripeto, questa cosa. A me mi viene in mente, guardando adesso Frodo e sentendo te, quando un po' di anni fa andammo al forum di salute mentale a Paola. Ti ricordi, Emanuele, quanto eravamo costipati su quel treno fermo verso la Calafrica? Costipati no. Stipati. Costipati no. No, ho detto stipati. Avevamo mangiato 40 banane. Costipati. Non lo so se eravate pure costipati. No, eravamo costipati. Eravate stipati. No. Vabbè, dai, sempre a capire male. Noi ti adoriamo per capire male. Eravamo, non mi ricordo la situazione, ma eravamo nel cortile di una struttura di Paola, e sopra questo cortile c'erano degli utenti di cui una continuava a dare delle capocciate addosso al muro, e la conseguenza fu quella di legare questa persona, e fra di noi si creava intanto un certo scompiglio rispetto a quello che accadeva. Ma mettere un cuscino, no? No, la riflessione di una ragazza che venne con noi, che abbiamo conosciuto sul treno, fu... perché noi ci dicevamo, ok, proviamo a pensare a una pratica diversa, perché spesso si criticano delle pratiche senza proporne delle altre. Prima pensava una pratica diversa, e lei nella sua tranquillità proprio istintiva disse: ma se lo portiamo al mare, ma le capocciate dove le dà? E su questo ci fu un po' una risata, perché sembrava molto semplice, ovviamente una semplicità che però non si riesce a praticare. A volte è questa la semplicità, cioè è questa la semplicità che funziona. Se voi pensate con 100 milioni di euro quante cose si possono fare, quanti progetti individualizzati per ogni singola persona si possono portare avanti. Io penso che l'ospedale psichiatrico giudiziario, veramente 1500 persone potrebbero essere riallocate in luoghi aperti, magari ben controllati, tra virgolette, da un operatore che comunque lo segue e lo sostiene e fa in modo che possa riabilitarsi il più possibile. Ma infatti quello chiaro, stesso che ci disse l'infermiere quel giorno, col quale poi parlammo, che quasi lo volevamo attaccare per dire: ma che cazzo hai fatto pure te? Disse: ho capito, ma se io sto su 15 persone, su 20 persone, tutte e 20 persone fanno questa cosa, è ovvio che non riesco anche ad adottare una pratica diversa da quella io delle... Però mi chiederei perché tutte e 15 persone fanno questa cosa. Nel senso, scusami tanto, dobbiamo fare un approfondimento dell'approfondimento. Cioè, se uno sta in un posto così molto banale, perché se uno sta lì in un posto chiuso che non si può muovere e deve fare quello che gli viene detto, ma tu ti incazzeresti? C'è anche un'altra cosa, perché nelle strutture psichiatriche di diagnosi sanitari obbligatori praticamente non esistono? Perché anche se una persona entra in TSO, entra lì, vede lì chiaramente, rimane lì volontariamente. L'estetica conta, l'estetica è chiaro, un posto bello e accogliente ci fa stare bene. Però io vorrei dire una cosa, nel senso, perché mi sembra molto che questa cosa, no, del passaggio, un po' forse esplicitarla un po' di più qual è la preoccupazione, perché tutto sommato dal mio punto di vista, come dire, il passaggio di una situazione che è quella degli OPG, che di fatto non poteva essere toccata dalla legge 180, perché abbiamo detto che dipendeva da un altro ministero, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per cui qui si apre anche tutta la partita della reclusione e del senso del recludere delle persone che hanno commesso degli atti contro qualcun altro o contro la società, quindi il senso del carcere, del reintegrare nella società, come viene fatto, perché viene fatto all'interno di una struttura. Però forse tutto sommato, come dire, il passaggio da una situazione dove teoricamente non puoi mettere bocca ad una situazione in cui dipende dal Ministero della Salute, io faccio un po' il bastion contrario, potrebbe non essere così negativa. Perché siamo così preoccupati che, come dire, la psichiatria possa diventare di nuovo coercitiva? Nel senso, perché pensiamo che quella roba lì degli anni 70 forse ad oggi, in questa situazione politica e sociale, in questa situazione culturale, potrebbe essere un'arma, cioè potrebbe essere quindi un'arma che si rivolge contro di noi, perché tutto sommato, cioè nel senso, tu comunque finalmente puoi gestire una roba che fino adesso dovevi intervenivi in parte. Ma non ho molta fiducia al momento della psichiatria italiana, perché ripeto, è vero che abbiamo un'ottima legge, ma è vero anche che questa ottima legge è scarsamente applicata, e è vero anche che in molte parti ha già una valenza custodialistica, perché sappiamo che il fenomeno della contenzione nelle strutture psichiatriche, ossia della gente legata al letto, chiamiamola con il nome giusto, ancora esiste e è molto frequente, che molte persone muoiono legate al letto, e nel momento in cui tu a queste strutture già preesistenti comunque gli dai anche una funzione sociale di custodia, mi preoccupa e soprattutto nel momento in cui quasi sicuramente le percorso psichiatrico e di giustizia psichiatrico, ossia le persone che dovranno essere, che prima venivano ricoverate in OPG e magari saranno ricoverate nelle strutture, saranno molte di più, perché queste strutture, essendo, siccome verranno pubblicizzate, ripeto, come strutture riabilitative, avranno molta più valenza nei giudici, che le considereranno molto di più e facilmente invieranno invece che in carcere, probabilmente alternative o detenzioni alternative. Assolutamente, su questo vorrei aggiungere anche un'ultima cosa prima di tornare alla musica, sennò qualcuno ci dice che siamo un accollo, e nel senso che non è la chiusura appunto di un luogo che permette la chiusura di un metodo. Nel senso che gli OPG appunto non sono solo dei luoghi, ma sono dei dispositivi curati al codice penale, che ne definiscono tre fondamentali caratteristiche che poi possono essere in qualche modo ripetute anche in altre strutture, ovvero l'oggetto, che è il cosiddetto infermo di mente, autore di reato, o il condannato che diventa infermo di mente, la forma, ovvero la misura di sicurezza, e le funzioni, quello di cura e di custodia. Ovviamente oggetto, forma e funzioni non sono cose che poi muteranno nei nuovi OPG, in questi nuovi mini OPG, e penso che probabilmente questa sia una delle nostre maggiori preoccupazioni, in quanto se nasceranno nuove strutture controllate dal Sistema Sanitario Nazionale, tendenzialmente saranno esternalizzate e privatizzate, il controllo poi sulle pratiche che ci sarà all'interno di questi luoghi sarà ancora minore. Difatti anche oggi, se noi vogliamo andare a vedere cosa accade all'interno di determinati luoghi, fa molta differenza se è una casa di cura privata o è un luogo pubblico, ovvero la possibilità di entrare e vedere cosa accade là dentro. Possiamo passare alla musica, anche perché ci avviciniamo alle ore 22 e quindi anche alla cazzata della settimana. Caro Sirem, tu è la prima volta che ascolti Salute e Felicità, ma Salute e Felicità è una tradizione. La tradizione che alla mezzanotte e che alle 10 viene la cazzata della settimana. Ma prima di lasciarvi alla prossima canzone, volevo citare giusto qualche righe del nostro caro amico Franco Basaglia. Dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale. Viene immesso, cioè, in uno spazio che è originariamente nato per renderlo inoffensivo ed insieme curarlo. Appare in pratica come un luogo paradossalmente costruito per il completo annientamento della sua individualità, come luogo della sua totale oggettivazione. Se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, perdita dell'individualità, della libertà, nel manicomio il malato non trova altro che il luogo dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e del ritmo dell'internamento. L'assenza di ogni progetto, la perdita del futuro, l'essere costantemente in balia degli altri senza la minima spinta personale, l'aver scandita e organizzata la propria giornata su tempi dettati solo da esigenze organizzative che, proprio in quanto tali, non possono tener conto del singolo individuo e delle particolari circostanze di ognuno. Questo è lo schema istituzionalizzante su cui si articola la vita dell'asilo. Questo brano è tratto dalla distruzione dell'ospedale psichiatrico del 1964 di Franco Basaglia. Io a tal proposito, prima della canzone, vorrei lasciarvi con una frase bellissima che si trova scritta sull'ex manicomio di Trieste: la libertà è terapeutica, quindi, come dire, liberi dai meccanismi istituzionalizzanti, liberi dai dispositivi di controllo e dagli psicofarmaci soprattutto. La prossima canzone è De Subsonica, si chiama Depre. Buon ascolto a tutte e tutti. Dal che ne pripi 22:07, tornati da Depre, una delle nostre canzoncine preferite dei Subsonici. Siari, Sirem, ci sei? Ci sono. Ammazza, sei resistente, eh? Eh, Emanuele, quando è che torniamo a fare politica insieme? Quando ti pare, io... Quando ti pare. Quando c'ho tempo per vedere anche altra politica. A proposito, un annuncio. Il 12 aprile ci sarà il processo per case matte. Sempre siamo qui di ospedali psichiatrici giudiziari e cioè l'argomento è lo stesso, su per giù. Case matte è una struttura occupata nell'ex ospedale psichiatrico dell'Aquila. E il direttore generale ha denunciato tutti gli occupanti e il 12 aprile ci sarà il processo. Questa cosa è sensibilizzare un po' tutti. Assolutamente, da qua al 12 aprile Salute e Felicità si farà anche portavoce di questo e lo ripeteremo anche con altri collegamenti di dirci di fare. E intanto Radio Noise, oltre a blastarci, ci dà anche un'informazione stranamente, questa sera ci vuole bene a tratti, che i Cramps nel 1978 fecero un concerto al Napa State Mental Hospital. Grazie Radio Noise, e quello che vogliamo fare con la musica di questa sera è anche un po' questo, cioè vedere quali cantanti e capire quali gruppi hanno portato la questione della contenzione nei loro brani musicali. Allora io direi salutiamo Sirem, se non vuole dirci altro, se non vuole aggiungere qualche cosa. Guarda, può bastare così, ci salutiamo e ci sentiamo prossimamente. E allora grazie Emanuele da questo fantastico iceberg di Piazza Vittorio, un bacio e un abbraccio. 22:08, ci rilasciamo sulla musica così poi andiamo avanti col palinsesto della serata. Vi ricordo che Salute e Felicità è una web radio indipendente. Transizione di fase. Noi siamo solo una puntata. Noi siamo una trasmissione. 22:09 e come potete anche capire dalla voce, dopo la cazzata del momento, preparatevi perché ci sarà l'oroscopo. Quindi settimana noi la perpetuiamo e la applichiamo nella diversa forma di nostra comunicazione. Quindi andiamo avanti con la musica. La prossima canzone è dei Blu Vertigo e si intitola Sono. Ciao Radio Noise, se ne va. Ciao Radio Noise, grazie della tua partecipazione in Salute e Felicità, ti vogliamo bene. 22:10, Salute e Felicità, Blu Vertigo. E sono le 22:18, con un po' di ritardo rispetto al previsto è arrivato il momento, ma prima della cazzata della settimana, lei, la mitica Tina Turner con The Best. A chi verrà dato il The Best di questa settimana di del febbraio 2012? Chi è che Salute e Felicità premierà per la migliore cazzata di questa settimana? Solo alla fine della sigla. Grazie ai nostri politici di tirare merda tutti i giorni sopra le nostre teste. Oh, che sono solo... La grappa già sta facendo effetto. Non l'ho bevuta. Mannaggia la miseria. Siamo pronti con il The Best della settimana? Sì. Quando parte? Quando parte? Ora parte. Non parte? Mi sa che dobbiamo refresciare la pagina, signore e signori. Refresciamo la pagina, signore e signori. Chi sarà Adi? Una frase postata su Facebook e su Twitter. Gli uomini delle forze dell'ordine, lo scrive Daniela Santanchè, e scoppia la polemica. Piovono migliaia di commenti alle parole dell'esponente PDL, e anche se l'onorevole non fa esplicito riferimento alla condanna a Luigi Spaccarotella, condannato a 9 anni e 4 mesi per la morte di Gabriele Sandri, in molti vedono nelle sue parole proprio un riferimento alla vicenda Sandri, con chi chiede giustizia. Anche chi ricorda che i poliziotti che sbagliano devono pagare, esattamente come i politici, anche il il padre di Gabriele Sandri interviene sulle parole dell'ex sottosegretario. Devo pensare che per la Santanchè la legge non è uguale per tutti, ha detto Giorgio Sandri. Abbiamo affrontato questo processo contro un individuo che si è macchiato di un delitto e di un gesto scellerato, non certo contro le istituzioni e tantomeno contro la polizia. Ebbene sì, signore e signori, la Santanchè ne ha fatta una nuova! E allora glielo rimettiamo un pezzettino di sigla, vero? Eccolo qua, ti è... Ma la Santanchè è quella che ci ha fatto il dito medio a manifestazioni di studenti e di studentesse? E certo, e certo! Quando noi eravamo tutti fuori sudati a dire no 133, no Germini, sì diritto allo studio... E dopo che si siamo pieti le cariche delle guardie di merda, lei ci ha fatto il dito medio. Mortacci tua! Ma scusatemi, adesso parliamone un attimo, approfondiamolo. A parte che vorrei anche, cioè, risentirla, perché è stata davvero fuori di... Cioè, la Santanchè, come al solito, è fuori di testa. Cioè, è sopra le righe, giusto perché andare sui giornali fa figo. Eccola qua. Eccola, eccola, mo parte. Parte, vero? Non si sente più. Mortacci tua, eccola. Aspettate, aspettate che ho sbagliato io, ma gliela famo risentire. No, no, no, no, no, lo so. Però comunque la politica si fa su Twitter, eh? Se non siete su Twitter non siete aggiornati. Non siete aggiornati per niente, infatti. Una frase postata su Facebook e su Twitter: gli uomini delle forze dell'ordine, anche se sbagliano, non sono mai assassini. Ma che cazzo vuol dire? Che un proiettile in testa non sei un assassino, sei un coglione e basta. Che roba è? Ma poi questi qui non erano quelli là per la responsabilità dei magistrati che sbagliano, no? Se un magistrato sbaglia, allora deve andare in galera, dicevano, no? Come adesso che Berlusconi è stato assolto, no? Dal processo Mills. Assolto, no, prosciolto, perché in realtà andando in prescrizione, e lì di merda, della destra di merda, hanno detto però Berlusconi, povero Berlusconi, povero Berlusconi. Povero. Cioè, le stesse persone che sono, come dire, accanite sostenitrici del fatto che se un magistrato sbaglia deve pagare per l'errore che ha fatto e per aver portato in tribunale una persona che poi era innocente. In questo caso chiaramente parliamo di una persona che invece è stata prosciolta dal suo, in quanto il reato è caduto in prescrizione o cadrà in prescrizione, non c'è il tempo per portare avanti il processo. Le stesse persone dicono che se un agente sbaglia comunque non è un assassino. Cioè, questa persona, questa tale Daniela Santanchè dal dito medio facile, ha detto che un poliziotto ti può sparare per strada, ucciderti, ti può uccidere, ma non è un assassino, ma non sarebbe un assassino perché ha fatto il suo dovere. Ma in quali condizioni? Cioè, spacca rotelle è uno che ha sparato da un lato all'altro dell'autostrada. Cioè, il caso Sandri, a cui chiaramente la Santanchè si riferisce, perché spacca rotelle gli hanno dato 9 anni e 4 mesi e lui si è costituito, cioè, per questo ha preso solo 9 anni e 4 mesi, perché quando è andato lì a dire scusate sì sono stato io, beh, ci avete ragione. Spacca rotelle ha sparato da un autogrill sulla A1 all'autogrill dall'altro lato della carreggiata, pensando di aver visto delle persone delle tifoserie di squadre opposte litigare a un autogrill. Cioè, sparo. E quindi sparo. E la prima volta che si giustificò fu: io ho sparato in aria e il proiettile ha colpito una pietra, che è una cosa che l'avevo già sentita. Ha detto l'avevamo svangata con Carlo Giuliani, magari ci ricascano forse, un'altra forse volta, ce la rifamo. Cioè, ma come ti viene in mente? Poi spari in aria e dopo 40 metri il proiettile ricade, colpisce una pietra, si chiama fisica, noi capito? Siamo psicologi, non le possiamo capire. Della, c'è la terza cose. Elementare e la Santanchè dice una cosa del genere. Adesso ci abbiamo chiaramente, uscendo fuori da quello che è la Santanchè, cioè alla Santanchè forse dovremmo far sentire i racconti di quello che è successo stanotte a Torino, della gente che tornava dalla manifestazione, notava una manifestazione gigante, chiaramente informazioni migliori delle nostre le potete trovare su Indie Media, eccetera eccetera, gente che tornava dal corteo e si è sentita bastonare da dietro mentre saliva sul treno, distrutta di stanchezza perché cammini in una valle di centinaia di chilometri su una superstrada per manifestare contro la TAV. Succede che così gli agenti, siccome non sono assassini, no, ma poverini, fanno solo il loro lavoro. Sì, ecco. Che cosa succede? Che vedono i manifestanti, li accolgono vestiti di tutto punto alla stazione, mentre salgono sul treno per tornare a Milano. In questo caso erano i manifestanti che da Milano erano andati a portare solidarietà alle persone che da anni lottano affinché la TAV non venga, come dire, costruita nella loro valle. E niente, che dopo un battibecco, come dire, così, di insulti, dopo vari insulti, tra cui i gestori di piazza tentavano di tenere, come dire, i poliziotti che sembravano appunto dei cani rabbiosi, tipo il cane di Pavlov, perché sì, vedi la bistecca inizia a salivare, non gliela fai più, e hanno deciso, visto i manifestanti, inizia a picchiare, i manifestanti inizia a picchiare, precisamente, e niente, è partita la carica e le hanno massacrati di palate. Infatti, tra lui Santanché, cioè vatta a mettere sotto le coperte e stai zitte. Innanzitutto abbiamo, per fortuna, su notav.info abbiamo un pezzettino di un'intervista, anche un commento a caldo, nel senso che la tipa c'ha la testa spaccata che parla a una telecamera, quindi cioè, c'è davanti 60 anni il collega che ma parlare. Sì, anche se sì, sì, abbondanti pure se te, e quindi ce la sentiamo. Vi facciamo un parallelismo sempre riguardo alla storia di Carlo Giuliani. Vi chiediamo di chiudere gli occhi, di sentire l'audio e di pensare che siete a Genova, perché la scena è molto simile. E poi vi diremo anche chi era quello che gestiva la piazza in questi giorni, perché c'è qualcosa che non torna. O torna tantissimo, o torna, come dire. Tutto, e il nome dire, ce la dice tutta quanta. Eccolo qua. Ma ha fatto delle cose terribili, li hanno caricati, gli hanno aperto un bar, li hanno lasciati passare e poi da dietro li hanno caricati, mentre loro tra il muro e il treno andavano gli scombati. Questi di Milano? C'era... Questi di Milano. E anche preso anche lei, signora? Sì, mi hanno dato due mangue nell'altro. E lei non doveva prendere il treno? No, però eravamo lì a salutare i compagni e anche cercare di capire questa situazione, perché cioè, questo non è il mio paese. Noi sì, li abbiamo trovati lì. Avete già trovato lì i poliziotti? Sì, sì, sì, li quindi trovati. Aspettavano, sì, sì. Nessuno si immaginava una violenza del genere, ma assolutamente. Questa è veramente stata, specialmente la carica mentre andavano in treno, è stata di una violenza incredibile. Ed ecco, come al solito, quando ti capita di risentire, appunto, di avere la fortuna, l'opportunità di avere un computer connesso a internet e di risentire un po' le testimonianze delle cose che vengono dette, per l'appunto, facevamo prima un parallelismo, no? Su chi è il simpatico, chi prefetto è, di Torino, qua, chi è il prefetto di Torino. Prima di dirvelo, vi facciamo sentire un altro pezzettino, perché anche qui il parallelismo con Genova è perfetto, no? Opla, c'era una tazza in terra, scusate. E il parallelismo con Genova è, come dire, sembra proprio di aver avuto modo, la fortuna, l'opportunità di sentire i racconti dell'inizio della manifestazione del G8 di Genova, no? Le prime corrispondenze audio che venivano fatte dalle allora radio indipendenti, che alcune ci sono tuttora, alcune no, e quindi sentiamocela un attimo. Questa lunga giornata notava è iniziata molto molto prima. Allora, siamo ancora di nuovo al telefono con un'altra compagna che si è recata lì, e allora dove sei tu? Raccontaci. Allora sì, io mi trovo in questo momento praticamente alla testa del corteo, che è partito da una decina di minuti dalla stazione di Bussoleno, con una grande, insomma, partecipazione di non solo di diversi comitati chiaramente che animano la lotta nottata in Val di Susa, ma anche di moltissime altre realtà nazionali e locali che hanno deciso di aderire a questa giornata appunto di mobilitazione nazionale che, come ci diceva anche il compagno prima in diretta, Sì, in risposta chiaramente agli arresti che sono avvenuti appunto nella giornata del 26 gennaio scorso, ma è anche un momento di rilancio proprio della lotta no TAV a livello nazionale. Volevo un po' così, visto che è anche una bella giornata, insomma, ridirvi anche il clima che si respira qui in piazza. Alla destra del corteo ci sono i gonfaloni, insomma, delle varie comunità montane della Val di Susa, i sindaci, insomma, che da anni portano avanti anche, diciamo così, a livello istituzionale le loro insomma, la battaglia no TAV, e poi ci sono le varie anime, insomma, del movimento no TAV. In particolare quest'anno c'è un carro, visto che siamo a poco tempo, insomma, di distanza dal carnevale, un carro allegorico che rappresenta tutte, diciamo, le forze che stanno premendo in questo momento sulla Val di Susa, quindi il governo italiano con le dichiarazioni di Monti anche questa mattina chiaramente ha ricordato quanto sia necessaria questa opera, perché è l'Europa stessa che ce la chiede, per cui c'è raffigurata Angela Merkel, insomma il governo europeo e quello italiano, che insieme appunto riuniti in questa piovra simbolica stanno mettendo le mani appunto sulla Val di Susa. Ed eccolo qua, no? Il meccanismo è facile. La stessa roba, cioè come si possa passare da quello che abbiamo appena sentito a un livello del genere è un cult, diciamo, della nostra democrazia, sì, del nostro paese. Quindi da quella tipa che parla a questo, mentre loro tra il muro e il treno andavano gli scombattimenti, questi di Milano, cioè un classico, no? Allora che cosa succede? Cioè, portiamoci indietro di 11 anni e ricordiamoci: manifestazione Social Forum a Napoli, manifestazione gigante, un botto di gente, un movimento No Global che si riprende giorni dopo della manifestazione di Napoli partono gli arresti, la gente gli erode e si fa un altro corteo. Quel corteo era a Genova, no? E quel corteo era il corteo, cioè era il giorno in cui davvero c'era tutto per sovvertire, per non arrivare a questa crisi, no? Per non arrivare alla crisi di oggi, c'era tutto il movimento in piazza da tutto il mondo. Stessa cosa succede a Torino, si fa una manifestazione gigante settimane scorse, da mesi si parla di Notav e di una comunità super pronta a opporsi a questa roba. Se passano le settimane, arresti, si fa un'altra manifestazione ancora più gigante. Quella di ieri è stata la più grossa dall'inizio del movimento, che è datato 30 anni, c'è tutta la storia di Sole Baleno, uccisi per la Notav, eccetera eccetera. E che cosa succede? Che il morto non ci scappa, meno male. Meno male, chiaramente non ci scappa. E allora andiamo a beccarcelo, cioè andiamo un attimo a vedere se riusciamo a farlo per i capelli all'ultimo minuto. Andiamo alla stazione di Torino, becchiamo quelli che tornano a Milano e vediamo se almeno a qualcuno gli spacchiamo la testa, vediamo se almeno di qualcuno possiamo parlare male e finire sui giornali, no? Il questore, come la persona che gestiva il G8 di Genova e la persona che gestiva la Notav di ieri di Torino, guarda un po', si chiama Manganelli, che non gestiva il G8 di Genova, ma gestiva una delle pagine più brutte, ecco, di Genova, che è la scuola Diaz. Chiaramente, eccoti qua, no? Cioè, come dire, Manganelli ha capito questa tecnica e la applica. Dove tu leggi Manganelli? Leggi manifestazione gigante, Manganelli, chiaramente, arresti, altra manifestazione di risposta ancora più grossa, mazzate fino alla fine. E se uno va su notav.info e guarda i video, si rende conto della furia, cioè di quanto questi poliziotti siano furiosi su questa roba, però, cioè contro questa, appunto, contro i manifestanti inermi che tornano, cioè, che tornano a casa. E bravo Manganelli. E sente anche i botti, se vai, che sono i lacrimogeni sparati dentro il treno. Dentro il treno, perché la gente che deve fare? Se a destra è il muro, a sinistra è il treno dove devi salire e che davanti fai, scappi dentro al treno e ti porta a casa. Cioè, dove devi andare? Cioè, sali sul treno, boh, lacrimogeni sul treno. Che merda, signore e signori. E la frase più bella che ricordiamo alla Sant'Anché e a tutte le merdate che dice lei è la frase della signora che dice: questo non è il paese mio. Questa roba è una merda a tal punto che questo non è il paese mio, questo non è il paese dove, dove voglio stare, nonostante io ho 70 anni e sono 70 anni che ci vivo. E allora, siamo pronti? 22:38, salute e felicità, va ancora avanti per un'oretta, sino alle 23:30. Sì, sì. Ancora sono diverse le cose di cui vogliamo parlare, ma soprattutto l'amaro è finito, il vino è finito, la birra è finita e noi non andiamo in pace soprattutto. Chiaramente. E andiamo avanti con la musica e ci prepariamo al momento dello Roshkup della settimana. Oh yeah. Quindi... tutti e tutti coloro che stanno in questa puntata un pochettino complicata. Questa puntata è veramente un gran puntatone. Brasileiro, l'amico mio brasileiro ci sta ascoltando come sempre. Di tronte di salute e felicità. Certamente. Vi invitiamo a scrivere in chat i vostri segni zodiacali. Esatto, per chi ancora non fosse entrato in chat, tipo Alessandra, ti sei pregata di entrare in chat, come si fa da sito? Clicchi su chat, poi se non è Java, metti Java e poi dici no. E segui e poi dici no. No. E magicamente entrare in chat di salute e felicità. Salute e felicità. E se dirai tuo segno, no, ti diremo noi la stella. Certo, mangio. 22:39, salute e felicità, va avanti con un fantastico brano che direi che ci sta molto bene. Certo, ma perché su quello che l'ho fatta io, cara. Ah, merda. Io direi che ci sta molto bene su quello che è successo alla Notav, che è un po' questa replica falsa e brutale di tutti i nostri cortei ai quali partecipiamo, dove quella stronza della Sant'Anchè ci alza il dito. Ci alza il dito. E le vorremmo dire, guarda che il dito nel culo a noi ci piace, Sant'Anchè. Non il tuo, brutta zozzora, ma no, il dito ci piace. A voi finisce. Com'era quella frase che ci piace tanto, Alfredo? La rivoluzione sarà anale, no? Com'era? Col dito, col dito. Questa la famo dire alla madre de Fausta. Col dito, col dito. L'orgasmo è garantito. E allora, I want to break free. Life still goes on. Un saluto ad Ale che è appena entrata in chat, ce l'ha fatta. E questo è David Bowie con Let's Dance. Allora, riniziamo da capo. 22:50, salute e felicità, è qui per voi! Ta-ra-ta-tan. Ora sì, olè! Ok. Bastava accenderlo! Bastava accenderlo! Il microfono. Raga, scusate, ma senza vino non si può andare avanti. E se venerdì scorso abbiamo fatto la cena di autofinanziamento per autistici, io direi che la prossimo venerdì del mese faremo una cena strike di autofinanziamento per il vino. Di salute e siamo guariti, no prof, ma che siamo guariti? In ma che senso così siamo guariti? Infatti, da quale punto di vista guardi il mondo tutto dipende, non si sa. E sì, allora il prossimo ultimo venerdì del mese siete tutte e tutti invitati a strike per la nostra magica cena di autofinanziamento, vi prego venite, sottoscrivete, mangiate, chiacchierate, condivideremo anche dalla postazione Cucina un Delirio, avremo una quantità di piatti innumerevoli e sottoscrivete perché abbiamo necessità di un microfono, visto che Frodo me lo sta chiedendo da circa 20 minuti con la faccia, mi dai il microfono? No, semplicemente, scusatemi, semplicemente per ricordare che c'è un blog del nostro Venerdì Radioattivo, che è appunto venerdiradioattivo.wikia.com, e quindi potete andare lì a trovare le notizie, gli ultimi aggiornamenti, e anche se avete qualche proposta ce la potete pure fare, insomma. E visto che in chat non, nessuno ci ha detto il segno che vorrebbe ascoltare, io direi che i conduttori vincono. Sì! Yeah! Quindi iniziamo con il segno dei... No, prima la sigla. Ma prima la sigla. Prima la sigla. Ma quanta musica mettiamo? Oroscopo di stelle. Questa settimana saluta la felicità. Anche questa settimana la precarietà ti ha influito sulla settimana? Di settimana della precarietà? Pensi che sia colpa di Monti? O della Fornero? O della Santa Che? Mancanelli? Alimortè. Alimortè, c'è salute e felicità. Soprattutto non proiettare. D'altronde è tutta una questione di transfert e controtransfert. Di proiezione e interiorizzazione. Compiti per tutti e tutti. Qual è il regalo migliore che potresti fare al tuo, alla tua migliore amico? O anche, qual è il regalo migliore che vorresti che il tuo migliore amico ti facesse? Questo te lo so inventare. Proiezione e interiorizzazione. 25 euro di desiderio simplex. Verifica empirica di follia di assenza di birra, esatto. Mancanza di sostanza chimica in cervello. Calcola, prof, che l'ultima birra che ho bevuto io oggi era la tua Anniken che ho portato a casa 2 settimane fa. E allora? Iniziamo col segno di pesci. Pesce. Lino. Lino. Pesce. Ti è finita l'acqua nel vaso? Ti sei riempito d'acqua allo stomaco? Bevi l'acqua di salute e felicità. Diuretica. Era come quella di Ancona. Pesci. Gawker ha fatto notare che John McCain, l'ex candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, tende a ripetersi un po' come saluto e felicità, a ripetersi e non poco. Alcuni ricercatori hanno scoperto che in 5 anni ha raccontato la stessa barzelletta 27 volte. Ma soprattutto ci aiutano i soldi a questi ricercatori. Capito, pesciolino, che sei qua vicino? John McCain ha detto 27 volte stessa barzelletta. Direi stessa cazzatella. O farai stessa cazzatella. Pesciolini di tutti i mondi, la prossima settimana vi preghiamo. So please. Ti prego, evita qualsiasi comportamento che somiglia a questa pigra ripetitività. Non puoi più imitare quello che eri un tempo. Guardati, adesso sei una cessa. E quello che facevi, no, sesso sopra, sotto, destra, sinistra, attaccata al muro, con legno, con ferro, con ascico, sdraiata, orizzontale, vecchie posizioni. Se ti riesce, pesciolino, cerca di reinventarti da capo e di farlo divertendo di più che puoi. Prossimo segno, Ariete. Ariete, la mia amichetta. Scusa, chi è Ariete, mo? Alla nostra amichetta nuova di Salute Felicità. Ah, pensavi che ti eri fatto scamare. Yeah, ammazza. No, la Ale fra poco si sposa, dai. Cara Ale e tutti gli Areti di Salute Felicità adesso. Ti invito ad individuare tutte le cose della tua vita di cui non hai più bisogno. Oh, darling, porta la lezione e le rivendiamo. Gadget ormai superati, vestiti che non ti stanno più bene, musica che non ti piace più, libri e opere d'arte che hanno perso significato. Beh, se hai opere d'arte, io... Regalaci, come dire, le accetto. Che il Feng Shui sia con te, Ariete, ma non ti devi fermare qua. Individua anche le persone che ti hanno deluso, ma ricorda, se le cose vecchie le puoi buttare dalla finestra, le persone no, soprattutto... Si chiama omicidio! E tu non sei un agente di polizia. O almeno spero. No, penso... Nascosto qualche cosa. Ai ai ai ai. Individua le persone che ti hanno deluso, i luoghi che ti deprimono e l'attività che ti annoiano. Infine, Ariete, cerca di capire quali sono le tradizioni che non ti commuovono più e i pensieri convulsivi che hanno assunto una vita propria. Minchia, Ariete, da fare un lavoro grosso quando un anno, Madonna santa. Ce l'hai una buona analista? Quando avrai trovato tutte queste cose, cerca di buttarne via qualcuna. Che culo, Ariete, che abiti a piano terra! Puoi buttare anche persone da finestra! Andiamo avanti col prossimo segno di Salute e Felicità 2259, che si mette in un incrocio astrale molto particolare. È quello del leone. È proprio il suo. Aria portoricana, brasiliana, romana. Tale leggo così. Ai reduci de guerra, che sono stati feriti da una granata, capita spesso che alcuni frammenti di metallo salgano in superficie e sbuchino dalla pelle. Molare della storia. Morale. Il molare della storia. Senti, il corpo fisico ci mette molto tempo a depurarsi dalle tossine. Sembrava un po' ti spiazzo in due di Rocky Balboa. Care leone, pure se smetti di bere adesso, a 90 anni il tuo corpo ancora sarà pieno di alcol e sigarette. Il corpo ci mette tanto a depurarsi dalle tossine e anche la, la psiche. E che tu venima di noi a te? Andiamo bene! Non si libera facilmente dei veleni che ha assorbito, ma non devi mai perdere la speranza che ci riesca. Pensavi che la tua prima analisi fosse sufficiente? Anche no. La seconda? Infatti hai fatto la seconda. Dopo 10 anni di seconda analisi, pensate che era sufficiente? No, è iniziata la terza. Dopo la terza, pensi che ne devi fare ancora? Boh, noi rispondiamo sì, perché tossine mettono molto tempo a depurarsi da corpo e da psico. Sì, dopo tre analisi bisogna tornare in analisi. Tutta una vita in analisi. Ma meglio in analisi che in dialisi. Però Leone, mettila così. A giudicare dei presagi astrali, crede che tu sia molto vicina a una catarsi cruciale, Leone. Diventa buddista. Che c'è? A catarsi dei cruciani. Santo dei santi sei con te, Leone. Andiamo sul prossimo segno. Ero Scorpione. Ebbene sì, che ho perso la pagina. Scorpione. Caro Rob, da mesi faccio un sogno in cui ho come animale domestico un serpente. L'unica gabbia che possiedo, però, non va bene. Ha le sbarre troppo distanti tra loro e il serpente continua a strisciare fuori. Nel sogno cerco disperatamente di farlo rimanere nella sua gabbia e sono esausto perché è un'impresa impossibile. L'altra mattina, dopo aver fatto quel sogno per la milionesima volta, mi sono chiesta cosa poteva succedere di tanto terribile se lo lasciavo uscire. Così mi sono scritto da solo questa autorizzazione. È consentito e perfettamente accettabile lasciare che il serpente dei sogni circoli liberamente per casa. Oh, che oggetto fallico! Caro Scorpione devoto, hai fornito a tutti i tuoi compagni scorpioni una storia molto istruttiva e utile per le prossime settimane. Grazie. È arrivato il momento del Sagittario. Caro Sagittario, da milioni di anni i nebbi bruni costituiscono i loro nidi usando le foglie, ramoscelle, erbe, fango, pelle e piume. Da qualche secolo prendono anche in prestito materiale degli esseri umani, pezzi di stoffa, cord o carta. Ma come si capisce, oh? Da milioni di anni i nebbi bruni costruiscono i loro nidi usando foglie, ramoscelli, erba, fango, pelo e piume. Marusca, lavate le orecchie. Ma così sembri Don Nascimento. Chi è di voi Ivanna Marchi? Da qualche secolo prendono anche in prestito materie degli esseri umani, pezzi di stoffa, card e carta. E negli ultimi decenni hanno aggiunto un altro elemento. L'82% di loro usa la plastica per decorare i nidi. Ti consiglio di prendere esempio da queste tre creature così adattabili. È il momento ideale per dare un tocco diverso alla tua casa. Allontanarti dalla tradizione potrebbe far aumentare notevolmente il tuo livello di felicità domestica. And andiamo avanti con ultimi due segni per questa sera. Oh yeah. Leggiamo gemelli. Gemelli. Cari gemelli, i gemelli che conosco io, questo oroscopo ci fa molto male. Molto, molto male. Aspettate che chiamiamo i gemelli. Gemelli! C'è l'oroscopo per te, di salute e felicità. Vuoi sentire? Sei in diretta. Gemelli, cerco di affrontare un giorno alla volta, dice il vignettista Ashley Brilliant. Ma a volte diversi giorni mi aggrediscono tutti insieme. Gnam! Gnap! Gnaps! Gemelli, stiamo leggendo il tuo oroscopo. Cerco di affrontare un giorno alla volta, dice il vignettista Ashley Brilliant. Ma a volte diversi giorni mi aggrediscono tutti insieme. È tuo, sì, ma... Pensi che presto anche tu dirai qualche cosa di simile, gemelli. Ed è una cosa buona. Io direi proprio no. No, ti aggrediscono, tu devi aggredire John. L'onnipotenza simplex è in noi. La vita ti sembrerà più concentrata e ricca di significato del solito. Anche tu berrai dei piccole boccette di succo di frutta concentrato, dove dentro ci sarà tutto. Gli eventi scorreranno più rapidamente e ne sarai più consapevole. Perciò dovresti avere un'eccezionale capacità di introdurre cambiamenti che avranno conseguenze per mesi. Ai ai ai. Ti piacerebbe che ogni giorno fosse l'equivalente di 9 giorni? O te ne basterebbero 4 gemelli? Te ne basterebbero 4 gemelli? No. La gemella qui vicino comunque teorizza le giornate di 72 ore da quando la conosco, 10 anni or son, Dio bon. E ora l'ultimo segno. Vergine. Ma prima di passare a Vergine, cara gemelli, qualcuno ti chiede di elevare il livello intellettuale della trasmissione. Un intervento intelligente, dici qualcosa di sinistra. Che senso? Articolo 18. No. Nonno, non rispondo a provocazioni morettiane. Vergine, l'acqua distillata non è un buon conduttore. Per poter condurre l'elettricità, l'H2O deve contenere impurità sotto forma di sali. Nei prossimi giorni faresti bene a tener conto di questa lezione, Vergine. Se ti sforzi troppo di essere limpida e trasparente, una parte dell'energia caotica, ma fertile e rinvigorente della vita, non potrà scorrere dentro di te. Per questo ti consiglio di provare a essere almeno un po' impura e imperfetta. Impara dal disordine, goditelo, accoglilo con gioia, non ti limitare a tollerarlo. Scompensati. Mi pare che scompensati è il finale esatto per questo bellissimo oroscopo che è tutto mio. 23:11. Salute e felicità, finisce questo momento fra le stelle. Andiamo avanti con la musica. Abbiamo ancora 20 minuti di musica. 20 minuti di musica. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, and come on. Say you will. Say it better, yeah. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Say you wanna play. You know you make me wanna shout, zip the Io non volevo andare dalla polizia perché avevo tanta paura. Dopo mi sono guardata piena di sangue e ho detto proprio questo, dico, perché non farmi giustizia, che non solo io, anche altre trans vengono picchiate e massacrate, infatti sto chiedendo giustizia. I postumi dell'aggressione si fanno sentire ancora sul corpo, ma la solidarietà piovuta addosso a Michelle in parte allevia il dolore fisico e psicologico causato dalle botte e dagli insulti. Lo so, la gente mi sta vicina, mi commenta, mi chiamano. Ma io sto male, ho bisogno comunque di cure. Dopo aver trovato il coraggio di denunciare la violenza subita, dopo aver trovato l'appoggio della comunità GLBT italiana e dell'Arcigay nazionale, adesso la trans aggredita la notte di San Valentino all'interno di un noto pub del centro storico di Catania è al centro di una fitta rete di supporto e solidarietà. Perché anche le altre trans trovino il coraggio di denunciare, perché anche chi subisce violenze di genere non abbia più paura. È una vicenda gravissima. Ci segnala un campanello d'allarme in questa città rispetto a un degrado sociale, culturale che perdura da troppo tempo e che deve attenzionare tutti. Non è soltanto un problema delle persone gay, lesbiche e transessuali, è un problema di tutta la città. Oggi la conferenza stampa nella sede dell'Arcigay Catania, presenti il presidente nazionale Paolo Patanè, i presidenti di Catania Agrigento, Calogero e De Caro, l'assessore alle pari opportunità del comune di Licata, Patrizia Urso, il presidente associazione Libellula, Gloria Gramaglia e una rappresentanza del PD catanese. Tutti 62 commissione, che è la più grande associazione LGBT d'Europa. Sì, abbiamo presentato la denuncia contro ignoti, depositeremo la seconda denuncia contro la gestione del locale per omissione di soccorso e colpa in vigilando. Abbiamo anche avviato delle indagini private. E a Catania, città notoriamente riconosciuta come gay friendly, questo è il primo caso di violenza denunciata da una transessuale. L'Italia in merito ha un tristissimo primato. Qui in Italia vengono uccise il maggior numero di persone transessuali ogni anno tra tutti i paesi dell'Unione Europea, un primato vergognoso. We always thought that we were not a rock and roll band, but it sure feels like rock and roll over here tonight. Guitars. We don't play guitars. We're standing on stage with our play guitars, but P-A-C-H-E-S plays guitar. Well, you may not play guitar, but I play guitar. Guitars. 23:20 e salute e felicità stanca. Arriva quasi alla fine, ma abbiamo ancora un paio di cose da dirvi, quindi è così. E io diciamo così, tac tac. Sì, stac, così. Stac. Veloce veloce. Veloce veloce. Indolore. Indolore. Ai. Aio. In Italia gli stipendi più bassi d'Europa. E la ministra Fornero giustamente dice che è una situazione che va assolutamente scardinata. Come? Con come? Cosa? Bisogna intervenire sulla redditività. Produttività. No, no, c'è scritto proprio redditività. Redditività. Due D, due T, una V e una T. E poi l'accento sulla A. Da reddito. Da reddito. E che è reddito? Aumentare il reddito. Ah, bisogna aumentare il reddito. Come? Ma... non ne ho idea. Ah, aumentando la produttività. Ma non è da lavorare meno e lavorare tutti. Con lentezza. Con lentezza. Non era reddito minimo garantito. O salario sociale. Io salario garantito. Ah, no. Non era quello. Vabbè, qua si fatica. Se fatica qua, ma non si guadagna. Come si fa? Come è possibile? Pigliamo meno degli spagnoli, dei ciprioti, degli irlandesi e dei greci. Attenzione, dei greci. Com'è possibile? E abbiamo i contratti più precari pure sempre dell'Europa, perché siamo quelli che hanno il cococò, il cococù e il cacacà. Il copro. Non vai, io la senti tutta. Vabbè, che da fa? 23 e 22 ci confermano quello che sappiamo, che siamo i più strozzi praticamente. E quando manifestiamo poi ci picchiano alla stazione mentre riprendiamo il treno. Che bel paese di merda. Ma forse qualcosa gliela potremmo dire il 9 marzo. Ah, che c'è il 9 marzo? Governo. Qui c'è il 9 marzo. Com'è che c'è il 9 marzo? Che c'è il 9 marzo, Frodo? Andiamo a fare una passeggiata? A fare una bella passeggiata in centro insieme alla FIOM. Ma non l'avevano vietato? No, era una cazzata da Alemanno. Ah, sì, me lo ricordo, Alemanno che a un certo punto ha detto no, basta i cortei, e qualcun altro ha detto sì, sì. No, basta i cortei in centro. Centro. Perché in periferia. Ma io un bel corteo a Tor Sapienza me lo farei comunque, continuo a ribadirlo. Io no, grazie. 23:23 ci sentiamo un'altra canzoncina. E poi andiamo a chiudere questa puntata di salute e felicità con... una triste notizia. Che notizia? Forse ho sbagliato? Vabbè, intanto i Blink 182 hanno un song. Un buon ascolto a tutte e tutti. Close it off, board it up. 23 e 26 e allora oggi, prima di salutarvi e chiudere questa bellissima puntata di Salute e Felicità, della quale troverete il podcast su salutefelicita.noblogs.org, il podcast della puntata numero 5 lo troverete fra qualche giorno e potrete riascoltare questi, diciamo, gli approfondimenti che ci sono stati oggi sul tema della salute mentale e degli ospedali psichiatrici giudiziari, sui quali torneremo fra pochissimo, giusto per chiudere. Ultima notizia, purtroppo in coda, ma oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose, è una notizia che viene da Ostia, dalla mia terra natale, porca miseria, e da una città soprattutto che ormai è stata quasi lasciata in mano a destroidi fascisti che puntualmente ogni tot mesi fanno aggressioni a destra e a manca, appunto, quasi indiscriminatamente. L'ultimo di quest'estate a un ragazzo che assomigliava a un gay e per questo è stato picchiato, e invece proprio fra il 23 e il 24 sono stati picchiati e aggrediti dei ragazzi del Teatro del Lido, che è un luogo occupato, e proprio in questi giorni si festeggiava i 2 anni dell'occupazione. Ci hanno provato 2 sere fa, non gli è riuscita, ci hanno riprovato un paio di notti fa e è andato, purtroppo questa aggressione è andata a buon fine. 3 ragazzi sono in ospedale con testa e bracci rotti, e quando si è chiamata braccia rotti, e quando si è chiamata la polizia, ovviamente vi potete immaginare che è arrivata dopo un lasso di tempo abbastanza lungo e ha portato tutti in questura e ha fermato le persone che sono andate in ospedale. Gli aggressori sono stati identificati come dei militanti di Casa Pound e il giorno dopo, non so per quale fortuna auto-organizzativa e voglia di combattere, perché a Ostia purtroppo questo è andato molto a scemare negli ultimi anni, c'è stata una manifestazione, una conferenza stampa e anche una festa, appunto, riferita a quello che è stato, che è il Teatro del Lido, e quindi tutto il discorso della cultura auto-organizzata e dell'informazione. Che dire, questo succede a Ostia, succede spesso, e succede soprattutto quando si lasciano anche dei luoghi d'agibilità, ma anche quando non si lasciano. E le parole a quest'ora sono quasi finite. Quindi io direi che ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata, ma ancora un'ultima cosa, pardon, perché ci sentiremo direttamente domenica prossima, quindi fra i vari appuntamenti diamo quello di sabato 3 marzo alle ore 15 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. Ci sarà una street art di donne che si chiama War Against Sexism, Disegna la tua libertà, per cui invitiamo tutte sabato, in particolare tutte sabato 3 marzo alle ore 15 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, per dire no al sessismo, per dire no alla violenza degli uomini contro le donne, per dire no alla violenza delle istituzioni delle istituzioni che fanno continuamente della politica un'arma per anche fare discriminazione di genere. Io leggerei però anche l'appello, perché tanto è molto molto corto ma anche molto carino. Vorresti, dopo una giornata di lavoro, stress e malumore, tornare a casa a piedi verso casa o rimanere in strada e rilassarti un po'? E invece no, perché ci sono occhi molesti che ti seguono fino a stressarti ancora di più. Vorresti un consultorio nella tua zona dove non sentirti criminalizzata e colpevole, gestito magari da un'assemblea di donne? E invece no, perché i consultori li stanno chiudendo uno dopo l'altro. Vorresti un lavoro ben pagato che ti lasci del tempo per le tue passioni e per te stessa? E invece no, perché certezza di un lavoro, di uno stipendio, di una pensione sono cose d'altri tempi. Ti dicono di rimanere a casa e non uscire la sera, è la cosa per te più sicura? E invece no, perché l'80% delle violenze avvengono in famiglia. Vorresti uno spazio di femministe e lesbiche dove socializzare e immaginare iniziative con le altre? E invece no, perché i macisti del quartiere hanno messo la colla alla serratura della porta e non riesce a entrare. Vorresti uno spazio e un tempo in cui esprimere te stessa, la tua creatività, la tua rabbia e le tue idee? E infatti eccolo! Vieni sabato 3 marzo alle ore 15 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. La strada è anche nostra. Occupiamola con idee, arte, musica e corpi vibranti. Vi lascio con un'ultima notizia prima di salutarvi e prima di chiudere la trasmissione come l'avevamo iniziata, come sulla salute mentale. Ricordiamo a tutte e tutti che se volete rilassarvi, cucinare del buon cibo se siete vegetariani o non, potete andare sul sito del nostro caro amico artfoodandothergaythings.wordpress.com. L'antidoto di questa sera è cavolfiore e fusi di pollo al gratin, che vi leggerete da soli andando appunto sul sito. E allora, dato che la, diciamo, il punto centrale, il punto focale della trasmissione di oggi era sugli ospedali psichiatrici giudiziari e sulla salute mentale, tema che molto probabilmente torneremo ad affrontare nelle prossime puntate, vi volevamo lasciare con un pezzo di Franco Basaglia scritto nel 1979 in conferenze brasiliane, che dice: l'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. 10, 15, 20 anni addietro era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto. D'altronde potrà accadere che i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi ancora di prima. Io non lo so. Ma in tutti i modi abbiamo dimostrato che si può assistere il folle in altra maniera. E questa testimonianza è fondamentale. Non credo che essere riusciti a condurre un'azione come la nostra sia una vittoria definitiva. L'importante è un'altra cosa. È sapere ciò che si può fare. È quello che ho già detto mille volte. Noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere. È il potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo. Cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare. Questo pezzo si chiama L'impossibile può diventare possibile. E già la nostra possibilità di salute e felicità è una sfida verso l'impossibile, verso la diffusione dell'informazione e verso la costruzione di una web radio indipendente, che è quella di transizione di fase, che salutiamo e ringraziamo. E a proposito di frasi che ricordano cose che sono possibili e impossibili e che ci piace, come dire, visto che siamo in vena di citazioni, possiamo iniziare domani e forse andare anche al 9 e alle prossime manifestazioni, oppure nei luoghi in cui facciamo politica, anche il 3 marzo in piazza, con una frase del cuore che diceva Ernesto Guevara: siamo realisti, esigiamo l'impossibile. E questa è Salute e Felicità 23:33. Vi salutiamo con due brani che vi lasciamo in consecutiva, giusto per Michele e Alessandra, in consecutiva. E quelli che ci stiamo per ascoltare adesso sono gli Psicantria, e sono, perché li riconoscerete, ma gli Psicantria andateveli a cercare, perché sono un gruppo abbastanza interessante che fa musichette allegre sulla questione della salute mentale. Allora, o psichiatra. Lo psichiatra è un laureato in medicina, che a volte non sa prendere la pressione. Non ti palpa, non ti ascolta, non ti spoglia, non ti cuce, non ti dà pastiglie da ingoiare dopo pranzo, e gocce come pioggia dopo cena, se minacci di saltar dall'altalena. Ma mi faccia capire, lei è quindi uno psichiatra o uno psicologo? La lingua è il mio cavallo di battaglia, sono laureato in psicologia. La cura non prevede la ricetta, la parola è la mia sola terapia. Mi spieghi che io prendo qualche appunto, ma guardi certo immagino, capisco. Lei soffre perché si è incantato il disco, consiglio una psicoterapia. Si sente un gran parlare di empatia, capire cosa prova un altro uomo, ma non dimenticare la simpatia, canta che ti passa con la psicantria. Proprio la guida nella salva oscura. E cultura è un allenatore che incoraggia, un falegname che toglie una scheggia. È quello che... Ero psicoterapeuta. Chi? Psicoterapeuta ascolta e scrive e scala insieme a te nella miniera. Non giudica, non ti indica la strada, è il rifugio, è la base sicura. Il sintomo ha un suo significato, che presto o tardi svelerà un segreto. E forse un giorno dal filo spinato un fiore sboccerà. E se lo chiedono tutti in terapia, transfer contro transfer cosa sia, ma non dimenticare la simpatia, canta che ti passa con la psicanteria.